快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好 安全带，一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好 安全带，一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车 歌舞剧场每天十点二十二点播出。歌舞剧场每天十点二十二点播出。 斯卡皮亚，我要和你一起去见上帝。说完，托斯卡猛然纵身跳楼自尽了。托斯卡虽然是一部爱情的悲剧，但是 Angelus Domini nunci avit Maria, et concepit de Spiritu Filio. Et vero, et ante l'era imperdonata, nella sua preghiera, io le vinsi non visto il bel sembiante. eccellenza, vado. Fai il tuo piacere. Tieno il paniere, fa penitenza. Fame non ho. Oh, mi rincresce. E va di grandesse chiuda. Va. Contigo.

lo giuro amore. Va! Conto, ma fretti! Ancora! No, perdono! Davanti la Madonna! Ne son dovente, Tutta qui la fantasia, ecco, questa vestita, non sapete, una parte, c'è gatto, una parte, ho spennato, ho scattato, e mi ho fatto per il tempo, e venite in campo, torne giù, se la hanno fizia, sempre senti la bisogna, e questa sera, grazie a colata, veglia di gala a palazzo Sornese, ed una cosica nuova cantata con gloria tosca e nelle chiese inni al Signore con via a vestirvi con più favor via, via, via, via. State per il Tedeum. Tu resta un nuovo e tu va frugognandolo, raccogli ogni traccia. Va bene. Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, esale tue risposte. Un prigionier di stato fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui? Ricordo. Forse c'è ancora. Dov'è la cappella degli attavanti? Eccola. Aperta. Arcangeli. E un'altra chiave. Un indizio. Entriamo. Fu grave sbaglio quel colpo di cannone, il mariolo spiccato e volò, ma lasciò una preda preziosa. Cavaradossi! E lui! Lui il cavaliere! Lui la vada di tosca! Un uomo sospetto! Un volterione! Vuoto! Vuoto! Ed ecco che fu! Si ritrovò nella cappella! Questo cavaliere! Tu lo conosci? Certo! Il sesto del pittore, non di me. Scuda quello che sai. Io lo lasciai pieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittore avrà pranzato. Nella cappella non ne aveva la chiave, né contava pranzar. Disse di stesso, ond io l'avrei già messo. Altri pacco libera me, Domine. Or tutto è chiaro, la provvista del sacrista d'angelo ti fu la preda. Chissà dove sia, svanisca, taglio l'ombra sulla stregone via. E tu, no, no, no, no, tradirmi non può. Non per galanteria, ma per offrirvi l'acqua benedetta. Grazie, Signore. Un nobile esempio il vostro, al cielo pieno di santo zelo, attingete. Sombrare poi calcate la scena e in chiesa ci venite per pregar. E intendete? E non fate come certi spantate che anni Maddalena di suoi costumi. Questo ventaglio dove stava? Là su quel palco. Qualcun ben decerto a sturbar gli amanti ed esse nel fuggir per delle tende. Nulla farei la vita per asciugare. risbirri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto profeni. Va bene, il convegno. Palazzo Farnese. 听众朋友，刚才您欣赏到的是由帕瓦罗蒂、弗雷尼、米尔奈斯等演唱的意大利作曲家普契尼的歌剧《托斯卡》上半部分录音，稍后请您继续欣赏。 北京人民广播电台有线古典音乐广播， 有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友大家好，欢迎收听北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。接下来请您继续欣赏帕瓦罗蒂、弗雷尼、米尔奈斯等演唱的意大利作曲家普契尼的歌剧《托斯卡》下半部分录音。 Quest'ora i miei segugi le due prete azzannano. Doman sul palco vedrà l'aurora Angelotti e il bel Mario alla capennere. Ostia palazzo, un ciambellane uscì ancora in faccia. Apri. Tarda è la notte. Cantata ancor manca la diva e strimpellan la botte tu attenderai la tosca in su l'entrata le dirai che io l'aspetto finita la cantata o meglio le darai questo biglietto e la verrà del suo Mario per amor del suo Mario al piacer mio s'arrenderò alle profondi amori e la profonda miseria violenta che belli tuo consenso io mi sospiri e mi lattiginose alle lunari poco mattano e non so trarre accordi di chitarra l'oroscopo di fior né far l'occhio di pesce o trovar come corda. Brava, la cosa bravata per sempre, me di sazio e di leggetto. galantuomo come non la caccia. Santiglia suo maduto, della signora seguimmo la traccia. Giunti a un'erba di me, a tali tratti perduta, e la ventrò, e si sarà ben presto. Allora scavalco l'esco il muro del giardino con i cagliotti, e piombo in casa. Quel bravo spaventa. Chiudo, razzolo, fugo. Ehi, gli angelotti! Non si è trovato! A cane, a traditore, ceffo di basilisco, e parchi! Gesù! C'era il pittore... Cavare Dossi! E il sa dove l'altro fa sonde, ogni suo gesto, ogni accento tragia, tal me far da ironia, che io lo trassi in arresto. Meno male. E lì è là. Introducete il cavalier. Me Roberti e il giudice del fisco. Val violenza! Cavalier, vi piaccia accomodarvi? Può sapere. Sedete. Aspetto. E sia. Venuto che una prigione. Venuto che una prigione. Oggi è fuggito da Castel Sant'Angelo. Ignoro. Pur si pretende che voi l'abbiate colto in Sant'Andrea. Al fatto, chi m'accusa i vostri dirvi in bandrugar la villa? Offri me! Guardate! Or basta! Rispondete! Sicura. Nulla sfugge ai gelosi. avrete paura di tradirmi. Sciarrone, che dice il cavalier? Mega. Insistiamo. Oh, è inutile. Piacermi si dovrebbe mentire. No, ma il vero potrebbe apprendere un'ora assai penosa. Un'ora penosa che non è vera, che fare nella stanza. Forza che sale chi la legge. Thank you. basta, Roberti. È svenuto. Assassino! Voglio vederlo! Portatelo qui. Mi dico me la donna bella non giurata fede debbo tradir, e voglio altra mercede, e voglio altra mercede, quest'ora io l'attendevo. Già mi strugge farebbe grazia un unico tovare. Come domani. Oddio. Così, così ti voglio. S'avvia, guida la scorta ultima ai condannati. Il tempo passa, sai quale oscura opera laggiù si compia. Là si drizza un patibolo. Alcunario per tuo voler. Non resta che un'ora di vita. Thank you. un istante. Mi fai ribrezzo. Chi è là? Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere è ucciso. Ebbene, lo si attenda, morto alle forche. E l'altro prigionier? Cavalier Cavaradossi. È tutto pronto, eccellenza. Dio m'assisti. Aspetta. Ebbene. Odi. Al libero l'istante lo voglio. Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà. Chi m'assicura? L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigioniero si è fucilato. Attenti. Facemmo del conte Palmieri un'uccisione simulata. Mi avvenne del Palmieri, hai ben compreso? Ho ben compreso. Va, voglio avvertirlo io stesso. E sia, le darai passo. Vada allora quarta. Temi la promessa. Non ancora. Voglio un salvacondotto onde fuggir dallo stato con lui. Partir dunque volete? Sì, per sempre. Si adempia il voler vostro.

sacerdote i vostri cenni attende. No, ma un'ultima grazia io vi richiedo. Se posso, io lascio al mondo una persona cara. Consentite che io le scriva un sol motto. Unico resto di mia ricchezza è questo anel. Se promettete di consegnarle il mio ultimo addio, esso è vostro. Scrivete. Oh, che cede. La prima sua grazia è questa, e l'ultima, che dici? Io cosa del mio amore volevo, pur me innamorata del sole. Così